Radio 24 Reportage. L'arte, nonostante tutto, di Irene Privitera. Alcuni sono cresciuti immersi nell'arte e per loro gallerie, esposizioni, fiere e rapporti con gli artisti fanno parte dell'attività di famiglia ed è quasi naturale portarne avanti il percorso. All'estremo opposto ci sono gli altri, tanti, sempre di più, che studiano storia dell'arte o beni culturali, coltivano il sogno di aprire una galleria. Qualcuno ci riesce, qualcun altro finisce dietro a una cattedra ad insegnare, qualcun altro ancora si reinventa, il lavoro se lo crea, si costruisce uno stipendio collezionando più attività, alcune propriamente artistiche, altre in qualche modo collaterali all'affascinante universo dell'arte, senza però rinunciarvi. Pare infatti che dalla scelta di occuparsi di arte nella vita, una scelta dettata soprattutto dalla passione, difficilmente si torni indietro. Il bel paese è intriso di storia dell'arte e dovrebbe essere il posto al mondo in cui è più semplice trovare lavoro in questo settore. Ma come funziona realmente? Oggi in Italia si può vivere di arte? La risposta di Lea Mattarella, curatrice della mostra Storie italiane sull'arte italiana dal secondo dopoguerra ai giorni nostri, è andata in scena a Bologna nei giorni di Arte Fiera 2013. È sempre più difficile vivere di arte, non dobbiamo nasconderci questa realtà. Io mi ricordo quando io ero ragazza e appunto se studiavo storia dell'arte pensavo di poter fare molte cose, che appunto avrei potuto insegnare, avrei potuto curare le mostre, avrei potuto scrivere sui giornali, eccetera. Oggi tutto questo è ancora possibile. È sempre più difficile però perché appunto moltissime gallerie chiudono, moltissime gallerie sono in crisi e quindi per esempio io insegno all'Accademia di Belle Arti per i ragazzi dell'Accademia, quelli che non diventano artisti magari si possono però, è vero, reinventare degli altri lavori, aprire una piccola galleria in diverse persone, consociarsi. Difficile quindi ma non impossibile, anche se su questo non ci sono dubbi, per fare dell'arte il lavoro della propria vita ci vuole innanzitutto una grande passione, più di un pizzico di intraprendenza e coraggio. Il percorso, ci raccontano a più voci, è incerto, soprattutto per chi ha il sogno più grande in questo ambito, aprire una propria galleria, avere una propria scuderia di artisti e vivere soltanto di questa attività. E il panorama delle gallerie è vasto, si va da quelle di provincia che risentono maggiormente della crisi, soltanto nell'ultimo anno 40 gallerie hanno chiuso, fino a quelle che Giorgio Spadoni, direttore artistico di Arte Fiera 2013, definisce vere e proprie multinazionali dell'arte, non solo perché hanno sedi sparse per il mondo, New York, Londra, Berlino, ma perché hanno il potere di scegliere degli artisti e farne delle star internazionali. Multinazionale è sinonimo di lavoro, si direbbe, non in questo caso però, dove il termine è usato soprattutto con un'accezione diversa, quella di una presenza globale di alcune grandi gallerie. Non bisogna confondere una multinazionale del mercato dell'arte con una multinazionale che produca delle cose, che può dare del lavoro a centinaia, migliaia o decine di migliaia di persone. Non è questo il caso. Queste grandi gallerie selezionano gli artisti che loro sostengono, non foraggiando indiscriminatamente un numero molto alto di questi artisti, ma appunto insistendo, puntando fondamentalmente su un gruppo sostanzialmente ristretto, l'elite. Se dell'elite non si fa parte, non c'è che da scegliere il percorso classico, gli studi universitari, l'accademia, l'ingresso nel mondo del lavoro attraverso gli stage. Le storie delle gallerie piccole o medio piccole sono quasi sempre storie individuali, si parte da soli o al massimo in due soci, con risorse limitate. I primi passi obbligati sono diretti verso la creazione di una rete di rapporti con gli altri artisti e con le altre gallerie. Gli inizi sono sempre difficili perché è impensabile che una piccolissima galleria che magari non può occuparsi altro che di giovani perché non può permettersi di tenere nella sua scuderia artisti che sono delle star internazionali, è un po' difficile che venga cooptata da una di queste grandi gallerie internazionali. Deve guadagnarsi la sua credibilità. A curiosare, fra gli stand dei padiglioni di Arte Fiera di questi protagonisti dell'arte italiana se ne incontrano decine. Le storie sono tutte diverse, interessanti e appassionanti. C'è ad esempio Giacomo Guidi, ex atleta che ha vinto anche i mondiali con la nazionale di scherma, ha iniziato a investire il denaro guadagnato nelle opere d'arte e 6 anni fa, 22enne, ha aperto la sua galleria. Non esiste un modo per fare questo lavoro, ma esistono tante possibilità. Il lavoro deve essere fatto tutto quanto in una maniera prospettica, cioè nel senso che se tu pensi di avere un risultato immediato, lasci stare. se hai un po' di pazienza e un po' di volontà, di forza per avviare una serie di cose, nel tempo ti ritornano e ti ritornano bene. Devi avere anche una certa possibilità economica per investire su questa cosa all'inizio. Sì, però guarda, lo posso dire tranquillamente, non è solamente una questione di soldi, è una questione anche di energia. Cioè, i soldi senza energia non garantiscono un risultato. La Galleria Di Marino nasce nel 1994 a Giugliano, in provincia di Napoli, e nel 2005 si sposta nel capoluogo partenopeo. Maria Dignola e il marito Umberto Di Marino, allora ventenni, seguirono l'amore per l'arte e aprirono, contro la volontà dei genitori preoccupati per il futuro professionale dei figli, quella che all'inizio era un'associazione culturale. Oggi l'attività della galleria coinvolge anche i due figli e muove, come spiega la stessa Dignola, diverse economie. Nella produzione di una mostra c'è il progetto dell'artista, poi c'è la produzione della mostra e quindi c'è bisogno di contattare fabbri piuttosto che cercare scaffali, piuttosto che contattare falegnami per la realizzazione di altre cose, di trovare supporti tecnologici per proiettare dei video, quindi videoproiettori, schermi, insomma, quindi è un lavoro che abbraccia tante realtà e muove tante economie. A Roma c'è la Galleria Z2O, aperta dal 2006, frutto della collaborazione fra due donne con due percorsi del tutto diversi alle spalle. Sara Zanin, allora all'inizio della sua prima esperienza, e Nicole Beller, che aveva una sua galleria da 2004, ma che con l'arte, per via della sua famiglia, c'era cresciuta. Cominciano insieme una nuova avventura, ma, come spiega la stessa Nicole Beller, in questo mestiere non mancano i momenti di crisi o quelli di riflessione. Quello che crea questo lavoro è proprio il rapporto con gli artisti, non credo che sia soltanto il calcolo, ci posso vivere con questo lavoro o no. Infatti quando ci siamo incontrate io e Sara, io avevo interrotto il mio lavoro di gallerista per un po' proprio per riflettere su questa possibilità di continuare a lavorare con questo mestiere. Puoi avere motivi tuoi personali, ma puoi anche renderti conto che magari è un momento più difficile. Devi raccogliere le energie anche economiche, perché comunque è un lavoro molto dispendioso, può dare grandi soddisfazioni, ma devi sapere che devi investire tantissimo. Nello stand insieme a Nicole e Sara c'è anche Flavia Badioli, che sta facendo lo stage nella galleria, una laurea in curatore dell'arte contemporanea, e le idee molto chiare. Per aprirne una in Italia prima bisogna formarsi all'estero. Sto facendo delle application per andare a fare un periodo di studio all'estero, le faccio in vari college e in vari musei, sia europei che americani, in particolare appunto il Goldsmith College di Londra piuttosto che il King's College, o anche il Whitney Museum di New York, che aprono queste prospettive con borse di studio agli studenti di tutto il mondo, cosa che spesso non viene fatta nell'università italiana, che soprattutto predilige molto la teoria piuttosto che la pratica. Emblematica la storia di Davide Rota, 28enne bergamasco con una laurea specialistica in storia e critica dell'arte. Davide ha alle sue spalle una collezione di stage nella città di Milano, ne ha fatti per quasi 4 anni, collezionando, quando è andata bene, retribuzioni simboliche. Ho fatto uno stage di 6 mesi alla provincia di Milano, non retribuito, uno stage presso un archivio di uno scultore, retribuito con una cifra simbolica, un altro stage presso un archivio fotografico, retribuito con una cifra ancora più simbolica, ho prestato servizio civile presso il Museo del Novecento per 1 anno, con una cifra altrettanto simbolica, insomma con una serie di cifre simboliche poi ho avuto la possibilità, insomma, di essere autonomo. Davide da qualche tempo insegna materie umanistiche e sociologiche e periodicamente scrive saggi introduttivi e testi critici su eventi e mostre, in media 2 o 3 in 6 mesi, e non influiscono in maniera significativa sulle sue entrate. Nelle sue parole c'è la consapevolezza che il futuro professionale non potrà essere molto diverso dal presente. Ormai ci stiamo avviando all'interno di una dimensione che è quella del libero professionismo. Noi siamo destinati ad essere comunque precari, però è un precariato che si può assolutamente sostenere se però d'altra parte c'è un'assistenza una supervisione e un monitoraggio da parte dello Stato. Il problema è che questo ora non c'è, siamo un po' allo sbaraglio. Una situazione che può e deve essere cambiata, dice ancora Lea Mattarella, critico d'arte, secondo la quale l'Italia ha tutte le risorse e tutte le carte in regola per vivere di arte. Il nostro paese è un paese che può vivere di arte, che può vivere di cultura, ha proprio tutte le possibilità per farlo, ha i più grandi musei del mondo, ha dei grandissimi artisti, l'arte del Novecento italiana per esempio è completamente ancora oggi sottostimata e quindi è vero che è sempre più difficile, però è vero anche che è necessario che tutto questo cambi, è necessario che si capisca che l'arte è una grandissima risorsa per il paese, per i cittadini, per la nostra vita e per la nostra memoria. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.